1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. E allora ci siamo, sono le 7:21 minuti, cari ascoltatori, è la rassegna stampa di 24 mattino. Siamo pronti, siete pronti anche voi nelle vostre macchine, nei vostri autobus, nei vostri treni, nei vostri soggiorni, nelle vostre cucine a fare colazioni. Forza, forza, che siete in ritardo. Avanti. Oh, non sanno di che parlare i giornali, eh. È mercoledì 12 ottobre, i titoli, c'è chi sceglie l'apertura sulla manovra come il Sole 24 Ore, deficit fino a 13,3 miliardi, nuove entrate fissate a 8,5, il titolo di prima pagina, o La Stampa, pronta la manovra, sale a 24,5 miliardi e Il Messaggero, taglia e crescita, ecco la manovra. Poi c'è chi sceglie ancora il dibattito nel PD, Renzi e i ribelli PD, se non vi fidate votate pure no. Questo è il titolo di apertura di Repubblica, mentre il giornale mette Ciaone PD, Renzi benedice la scissione. Bersani non farò scissioni è invece il titolo dell'Unità di apertura. Per il Corriere della Sera un'apertura dedicata al clima internazionale, la tensione internazionale, clima di guerra in Russia, scorte alimentari, esercitazioni di civili e Putin salta l'incontro con Hollande. Questa è l'apertura, ne vedremo di altre. Intanto voglio subito tuffarmi nella lettura degli articoli, a cominciare da questa classifica, visto che ieri era la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze e Save the Children ha realizzato questa classifica, cioè una classifica dei paesi al mondo, i migliori dove nascere bambine e i peggiori. In base a quali parametri? Beh, la mortalità materna, il tasso di gravidanze delle ragazzine tra i 15 e i 19 anni, il numero di spose minorenni, il tasso di istruzione fino alle scuole medie, la percentuale di parlamentari donne. Secondo questi parametri, diciamo che i paesi dove è meglio nascere bambine sono la Svezia al primo posto, poi Finlandia, Norvegia, Paesi Bassi, Belgio. L'Italia è al decimo posto, mentre man mano che si scorre la classifica pubblicata dal Corriere della Sera, leggo a pagina 21 l'articolo di Elena Tebano, si va sempre più nell'Africa profonda. L'ultimo paese al mondo, paese peggiore al mondo dove nascere bambine è il Niger, il penultimo è il Chad, la Repubblica Centrafricana, il Mali, la Somalia, questi gli ultimi cinque paesi, scrive il Corriere. Nascere femmina in Svezia significa essere nelle condizioni di completare gli studi, non essere costrette a sposarsi troppo giovani, avere tra i più bassi rischi al mondo di morire di parto, praticamente le stesse possibilità degli uomini di diventare parlamentari. In Niger vuol dire molto probabilmente dover far la moglie di quando le bimbe europee stanno sui banchi. Infatti il 76% delle donne del Niger si sposano prima dei 18 anni, vuol dire avere figli da adolescenti, succede a una su cinque, rischiare di morire per una gravidanza, non studiare. In generale nel mondo ogni 7 secondi si sposa una ragazza sotto i 15 anni, ogni 7 secondi. Oltre 1 milione di ragazze diventano madri prima dei 15 anni, 70.000 diventano madri tra i 15 e i 19 anni, 70.000 perdono la vita ogni anno per cause legate alla gravidanza e al parto. Questa è la classifica, la trovate sul Corriere della Sera, è proposta da Save the Children e viene, la potete leggere così. Allora, una notizia buona, credo, per tutti i viaggiatori di aerei. Lucio Cillis racconta in prima pagina di Repubblica questa notizia: hai perso l'andata in aereo? Il volo di ritorno è salvo. Attenzione, perché non era sempre così. Molte compagnie aeree applicavano finora la no-show rule, una pratica adottata, che vuol dire in pratica questo: non ti presenti, cioè no-show, non ti presenti all'andata, perdi tutte le altre tratte e il volo di ritorno. Ora invece le compagnie dovranno adeguarsi alla vittoria dei viaggiatori. Prima della sentenza del Consiglio di Stato dei giorni scorsi, il risultato era quello di veder svanire il ritorno nelle tratte successive se uno non si presentava all'andata. Ora invece il Consiglio di Stato, in una causa contro l'Italia, ha stabilito che questa regola, non tanto è stata bocciata la regola, attenzione, qui il Consiglio di Stato ha stabilito una cosa un po' diversa. L'autorità per la concorrenza non ritiene illegittima la regola in sé, ma è scorretta la carenza di adeguata informazione ai consumatori sull'esistenza di limitazioni all'uso del biglietto. Quindi l'antitrust ha sanzionato l'Italia non tanto per l'utilizzo della pratica commerciale dello no-show rule, ma per l'uso in parte scorretto della procedura e perché le informazioni sull'offerta commerciale non erano adeguate. Voli, basta sorprese, no ai ritorni cancellati se si perde l'andata. Lo trovate su Repubblica, è una notizia direi da approfondire, in prima pagina e poi pagina 26. Mentre se volete iscrivere un vostro figlio nelle scuole inglesi, come abbiamo sentito anche il giornale radio con tanto di protesta dell'ambasciatore, sappiate che vi verrà sottoposto un questionario. Vi verrà chiesto: il vostro figlio è italiano? Oppure il vostro figlio è italiano napoletano? Oppure il vostro figlio è italiano siciliano? E non è una barzelletta, ma è così. Il questionario inglese che scheda gli studenti napoletani o siciliani. Il Corriere della Sera con Fabio Cavallera mette anche proprio la schermata di questo. Scegli la nazionalità. Ita, con due A, Italian. Itan, Italian Napoletan. E Itas, Italian Sicilian. Devi scegliere. Quindi napoletani, siciliani o tutto il resto degli italiani. Giustamente l'ambasciatore, con una malcelata ironia, ha fatto capire e sapere agli inglesi e alle scuole inglesi che dal 1861 abbiamo l'unità d'Italia, anche con un pizzico di polemica. Insomma, ha fatto notare questo. Comunque la polemica è servita invece sui giornali. Eccolo qua. Anche La Stampa: l'iscrizione nelle scuole inglesi italiano, siciliano o napoletano? E Libero: per gli inglesi ci sono tre razze di italiani. E va bene. In tutto questo vi segnalo che cosa, per rimanere su Libero, c'è questa notizia che a proposito di razzismi o presunti tali, c'è solo su Libero. In realtà Libero la riprende dal sito Giustiziami, che dice: in esclusiva abbiamo visionato questo filmato. Libero riprende questa notizia, ci riporta indietro al tempo delle olgettine Berlusconi, in questo caso Maristel Polanco, una delle olgettine che avrebbe filmato di nascosto Silvio Berlusconi. Ci sarebbe questo video, entrato tra l'altro nel processo Rubiter, e in questo video Berlusconi parlerebbe, sentite i condizionali che uso, di Raffaella Fico e Mario Balotelli, della loro relazione. E parlando di Raffaella Fico, Berlusconi direbbe: una che va con un negro mi fa schifo. E tra l'altro Maristel Polanco risponderebbe a Berlusconi: ma Silvio, ma anch'io sono negra. E Berlusconi direbbe alla Polanco: tu sei abbronzata, non negra, rispolverando la vecchia battuta usata per Obama. Una che va con un negro mi fa schifo, questo è il titolo di Libero, e sarebbero le parole di Silvio Berlusconi immortalato in un video girato di nascosto da Maristel Polanco. Vedremo questo video? Chi lo sa se apparirà e se c'è. Allora, intanto, per l'articolo che mi fa più mezz'ore della giornata, devo saltare sull'apertura del quotidiano La Verità. Perché è stata scovata questa notizia: Alfano dà la residenza ai clandestini, questo è il titolo, cioè una circolare del ministero che obbliga i sindaci a rilasciare certificato e carta d'identità ai richiedenti asilo. Obbliga, proprio così, se ne è accorto. C'è l'articolo di Mario Giordano che racconta questa vicenda e c'è un'intervista di Alessia Pedrielli al sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, che è colui che in pratica ha scoperto questa vicenda. Quando dico che obbliga, questa circolare obbliga i sindaci, ripeto, a dare la carta d'identità a coloro che sono qui, hanno fatto richiesta di diventare profughi. Magari poi questa richiesta verrà respinta. Non si sa. Nel frattempo, dice il sindaco, i profughi alloggiati nel nostro comune, qualora ne facciano richiesta, possono diventare residenti a tutti gli effetti, anzi non possono, lo diventano. Ma com'è possibile? E risponde questo sindaco, è possibile. Grazie al combinato disposto del regolamento anagrafico della legge 142/2015, articolo 5, comma 3, prevede che il centro, le strutture d'accoglienza vadano considerate come luoghi di dimora abituale ai fini dell'iscrizione anagrafica e dunque qualsiasi profugo assistito dalle cooperative, nel caso chieda al comune in cui si trova la residenza, la ottiene, anche se non, ancora non si sa se gli verrà riconosciuto lo status di rifugiato. Esatto, risponde il sindaco, e quindi potrà usufruire dei servizi del comune, per esempio la casa comunale, cioè quel paradosso per cui non si sa se verrà accolto come rifugiato, ma intanto ha i diritti, per esempio, di iscriversi alle graduatorie per le case comunali. E questo è davvero incredibile, lo racconta La Verità in prima pagina, il titolo: Alfano dà la residenza ai clandestini. Ma signora, ma che fa? Ma metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan, il gioiello más precioso della corona, ti aspetto al mio compleanno. God save the Queen. Va bene, va bene. Alle 7:36 minuti, oh, tra l'altro, se ci ascoltate dall'estero, come questa illustre nostra ascoltatrice, se ci ascoltate dall'estero, scriveteci una mail a 24mattino@radio24.it, perché vi chiameremo in onda, Vi chiamiamo come ogni giorno quasi alle 6:50 per raccontarci come si vive nei vostri paesi. Allora, la disfida al grido di scissione, scissione, no, nessuna scissione all'interno del Partito Democratico. Ieri Renzi era a Politics e vedremo se ha tirato un po' sugli ascolti. Oggi alle 11, quando si diffonderanno gli ascolti di Politics, Renzi ha battagliato. Ha detto, questa è la frase più che rimarrà scolpita: non si fidano di me, allora votino no. Questo è l'appello, o meglio la pietra trombale di un dialogo con la minoranza del PD. Il leader replica sul referendum alla sinistra, rimanda al congresso. Bersani ora dice: dal PD mi caccia solo l'esercito se lo schiera la Pinotti. La Pinotti dice: nessun esercito, schiererò l'esercito per farlo restare. Cuperlo rilascia un'intervista a pagina 3 del Corriere della Sera dopo aver detto il 5 dicembre: se vengo costretto voto no e mi dimetto dal Parlamento. Temo una rottura del nostro mondo, questo partito non è più una comunità. Questo dice Cuperlo, intervistato da Alessandro Trocino, pagina, ripeto, 3 del Corriere della Sera. A pagina 3 di Repubblica invece c'è un dialogo con Bersani. Andrea Carugati e Goffredo De Marchis raccontano alcuni stralci del Bersani pensiero, tipo: ho detto che a Renzi il cuore lo porta a destra, a me invece farà restare sempre qui a sinistra. Il prossimo congresso del PD è decisivo, bisogna scegliere tra il partito di Renzi e un nuovo centro-sinistra. Io mi batterò per questo. Quando dico che vanno separate le cariche di premier e segretario, lo dico perché il PD si deve mettere a disposizione di questo progetto con generosità. Se vince, sì, Renzi e i suoi tirano dritto per la loro strada. E io vedo quello che succede nel mondo. Il rigurgito dei populismi, delle destre. Riguardo poi alla commissione per cambiare l'Italicum, Bersani dice: parteciperemo, una commissione non si nega a nessuno, noi ci andremo per simpatia verso Guerini. Questo a capire che insomma non parteciperà con grande entusiasmo. E poi, come fa Renzi a paragonarsi a Prodi? Ci vogliono più umiltà, senso delle dimensioni. In quel governo c'erano Ciampi e Napolitano, ci davamo del lei. Mica facevamo la legge di bilancio in 10 minuti per andare ai TG. Abbiamo lasciato il debito al 103%, ora è al 133%, ma vedo che si continua a chiedere flessibilità per fare i bonus e altri debiti. Renzi parla tanto di futuro, poi carica così le spalle dei nostri figli. Questo Bersani su Repubblica, viene intervistata anche dalla stampa, dice più o meno le stesse cose, insomma il dibattito nel PD c'è. In tutto questo pende sul referendum un nuovo ricorso, lo ha presentato l'ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Nida, 80 anni, intervistato dal Fatto Quotidiano a pagina 3, dice: il principale nodo per cui ho fatto ricorso alla Corte Costituzionale è quello già evidenziato da me e da altri 55 costituzionalisti. La legge di revisione costituzionale ha oggetto e contenuti assai eterogenei, tra di loro autonomi. Ci sono almeno 10 diversi aspetti, a partire dai principali, la modifica del Senato, i rapporti tra Stato e Regioni. Si dovevano fare leggi distinte, poiché invece se n'è fatta una sola, dovrebbero essere separati i quesiti referendari. Per questo ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale che, dice Onida, spero al più presto si esprima su questi ricorsi. Il 20 a Milano si discuterà di un ricorso analogo al nostro. Vedrete che ci saranno pasticci. Niente, chissà se si voterà il 4 dicembre. Almeno l'unica certezza che c'era, che il 4 dicembre sarebbe finita tutta questa tragedia o tragicommedia, invece pendono dei ricorsi. Il mondo intanto va avanti. Per esempio, c'è una manovra? Una manovra da presentare, una manovra da 24,5 miliardi, come ha detto il ministro dell'economia Padoan. Marco Rogari e Gianni Trovati raccontano a pagina 3 del Sole il cantiere della manovra, che arriverà sabato sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Al momento raggiunge quota 24,5 miliardi e poggia su tre pilastri: l'annunciato blocco delle clausole di salvaguardia, da solo vale 15,1 miliardi, cioè evitare l'aumento dell'IVA, il pacchetto su investimenti e competitività, che pesa 4,2 miliardi, le misure sociali e sulle pensioni, lotta alla povertà e contratto degli statali per 3,1 miliardi. Al pacchetto si aggiungono 2 miliardi di effetto trascinamento delle misure già adottate con l'ultima legge di stabilità, e per coprire il tutto il governo conta prima di tutto su 8 miliardi e mezzo di nuove entrate fiscali, oltre 5,8 saranno permanenti, principalmente dalla lotta all'evasione all'IVA e da una stretta sull'aiuto alla crescita economica, mentre gli altri 2,6 miliardi sono one shot e sono attesi dalla replica della voluntary disclosure, dai giochi, dalla riapertura dell'assegnazione agevolata e dalle rivalutazioni di terreni e partecipazioni. Comunque il cantiere è aperto ed è tutto dettagliato sul Sole 24 Ore, dove si parla anche di pensioni, come scopriremo tra poco. E a proposito di pensioni, vi segnalo sulla stampa l'intervista al presidente dell'INPS, Boeri. Tito Boeri parla, dice: se non riorganizziamo l'INPS, la riforma delle pensioni, dunque la riorganizzazione come premessa all'attuazione del piano di anticipo pensionistico, che altrimenti è a rischio. L'INPS dovrà essere il centro di una rete tra banche, assicurazioni, imprese, lavoratori. È una grossa sfida. Abbiamo il dovere di informare adeguatamente i contribuenti delle implicazioni di scelte difficili. Per farlo abbiamo bisogno di più dipendenti preparati sul territorio. Dunque Boeri dice e mette in allarme: attenzione, l'APE, che lui stesso dice è un meccanismo complicato per cui ci vorrà un'importante campagna informativa, il contributo dei sindacati. Se non rinnoviamo l'INPS è tutto a rischio. Entro un anno, poi dice Boeri, il sussidio di disoccupazione sarà automatico. Riguardo alle buste arancioni, ne abbiamo inviate 2 milioni, le abbiamo mandate a chi non aveva il codice di accesso ai servizi online. Questo dice Boeri, che poi dice anche tante altre cose sul rapporto col Premier, in questa intervista Alessandro Barbera sulla stampa a pagina 3. Oh, le pensioni, caro Mauro Meazza, quanto ti manca la pensione? Te lo dice la tua busta arancione? Caro Alessandro, mi manca ancora molto tempo, tempo, quindi... Beh, un po' a meno di più. Quello che... infatti, di più. Ma forse a te anche molto di più in realtà, chi può dirlo? Del domani non v'è certezza, ma si potrebbe anche dire della pensione non v'è certezza. Però, visto che siamo in argomento, ti invito a leggere e conservare la pagina 5 del Sole 24 Ore, laddove i colleghi Davide Colombo e Marco Rogari ti riepilogano, ad esempio, l'APE, che si fa in quattro. No, nel senso si fa in quattro per te. Diventa, c'è un quarto canale che si aggiunge. Spieghiamo tutto anche con l'ausilio di schede. Il quarto canale, dico solo così brevemente, è per i lavoratori cosiddetti affidati a lavori gravosi, non usuranti, gravosi. Non è un nostri, termine. No, cominciamo a usare adeguatamente i termini. Se ne sta discutendo, vedremo in questi giorni come poi l'APE prenderà la sua fisionomia definitiva. Già hai ricordato che arriva la voluntary bis closure, cioè la riedizione. Se leggi con attenzione nelle prime pagine sulle 24 ore vedrai che c'è una particolare attenzione per la riemersione del contante. Sai che potresti anche, non so, scavare un soffitto, per dire, un controsoffitto, e trovare qualche milione di euro, non so se ti è capitato. Beh, a me no, però no, adesso prendo... alcuni ho letto che è capitato, quindi comincio ad armarmi di piccone, sai mai. Prova un pochino a scavare nei muri di casa. E comunque no, scherzi a parte, c'è questo canale che già esisteva nella prima voluntary e che verrebbe potenziato per la seconda, ma trovi tutto appunto sulla pagina 2 del Sole 24 Ore di oggi. Insieme al Sole 24 Ore di oggi, caro Alessandro, un inserto da meditazione, un intero inserto, non un articolo, ma forse anche da degustazione, perché parliamo dei reati online. Hai presente il phishing, cioè ti mandano quelle mail, sono la tua banca, e non è vero. Ti voglio invece bene, c'è qui un conto con milioni per te, sì. Quelle cose qui lì. Sì, oppure lo stalking, ad esempio, o il cyberbullismo. Ecco, tutte cose che vengono descritte in questo inserto che trovi oggi con il Sole 24 Ore, che appunto ti invito a conservare come inserto da meditazione. Ti voglio anche segnalare che riparte la trattativa per una Tobin Tax. Sai cos'è la Tobin Tax? Sì, come no. La tassa sulle transazioni finanziarie dal mitico in Italia. Tobin. In Italia c'è, nella UE se ne sta discutendo, in realtà se ne stava discutendo, poi la discussione si è un po' fermata, adesso invece riprende, ce lo dice Beda Romano nelle pagine oggi del Sole. Non so se hai avuto già modo di notare che ci sono dei telefonini di un'azienda sudcoreana, sì, come dire, la Samsung, che vanno a fuoco. Sì, ce ne occupiamo però nelle pagine di finanza, perché c'è stato un brutto colpo anche per quanto riguarda le quotazioni. E poi naturalmente l'IRAP, perché va bene che arriveranno anche tasse nuove. Tu quanto puoi mettere di questi miliardi che stanno cercando? Sempre i due eurini, ecco. Vabbè, niente. Ti parliamo di IRAP nelle pagine di norme e tributi, e ti parliamo anche delle app marca tempo, cioè delle app che il garante della privacy ha detto va bene, si possono usare per i dipendenti che sono fuori sede, destinati magari a un'altra azienda, e che in questo modo devono segnalare se sono effettivamente andati a lavorare oppure no. Insomma, le app antifurbetto si potrebbero anche chiamare. Ma trovi tutto su norme e tributi. Io per ora mi fermo qui, caro Alessandro, cari ascoltatori. Traffico! Alessandro Milan, se non c'era lui, c'era un altro. Infatti. E presto, chi lo sa. Tra l'altro, caro ascoltatore, cari ascoltatori, oltre ai tanti articoli del Sole 24 Ore, oggi ne troviamo sui giornali anche di articoli sul Sole 24 Ore, perché, come racconta per esempio il Fatto Quotidiano con Giorgio Meletti, la Procura di Milano ha ufficializzato l'apertura di un fascicolo di indagine sui conti del Sole. Faro che è stato acceso in seguito all'esposto del presidente dell'Adusbef, Elio Lannutti, che ipotizzava reati di falso in bilancio a giotaggio. Per il momento un fascicolo che non indica né ipotesi di reato e né indagati. La risposta ufficiale di Confindustria è questa: siamo un libro aperto, massima trasparenza, massima tranquillità. Il Sole 24 Ore scrive, il Fatto Quotidiano, indagini anche sul mistero della D-Source, questo a pagina 17, ma lo trovate anche su Repubblica, sul Giornale, insomma, su diversi quotidiani. Per quel che riguarda gli articoli di cronaca, vi segnalo Salvini si è molto arrabbiato e c'è una sindaca, si definisce così, già questo i leghisti magari farà arrabbiare, ma fa arrabbiare ancora di più quello che ha fatto a Oderzo, la sindaca Maria Scardellato, eletta con la Lega, che ha combinato qualcosa di non combinabile per i leghisti. Ha unito civilmente due uomini, Pasquale Nigro, parrucchiere, Andrea Sara, titolare di un bed and breakfast, e ha avuto un po' una sorta di scomunica Per esempio, sentite il segretario provinciale di Treviso che dice: l'avevo avvisata, non ha cambiato posizione, ora io farò riferimento al vice sindaco. E Salvini dice: se la sindaca si è prestata a questo giochino, avrà poco a che fare con la Lega. Insomma, racconta La Stampa con Alberto Mattioli a pagina 15, Salvini scomunica la sindaca leghista che ha celebrato il matrimonio gay. Questo è il titolo sulla Stampa. Poi ricordiamo che ci sono dei rapiti italiani in Libia, forse ce lo siamo dimenticati, ma ci sono. Lorenzo Bianchi sul Giorno racconta: i rapiti in Libia sono due, Danilo Calonego, Bruno Cacace, due tecnici che lavoravano lì. La rivelazione: sono in mano a un gruppo di algerini che hanno fatto una richiesta di riscatto, 4 milioni o li diamo all'ISIS. Questo è il titolo di pagina 11 del Giorno. Se ne parla poco, si spera si lavora invece sotto per liberarli, ma questo è. Trovate ancora molto su Fabrizio Corona, commenti. Una pagina del Corriere della Sera, dove viene ancora definito fotografo. Si sa che Corona, per sua stessa missione, sa fare le fotografie come io so recitare il Corano in arabo. Cioè, non avrà fatto due fotografie in vita sua. Non è mica come il nostro Peter Bescapè, il nostro foto Peter. Lui vendeva fotografie, non è che faceva le fotografie. Comunque il fotografo Corona, così è definito. In quel borsone 30 buste piene di soldi. C'è anche tutta una mezza pagina dedicata alla sua segretaria, forse innamorata, chissà se ricambiata da sempre, Francesca Persi, che è finita in galera con lui per questa ultima vicenda. Vabbè, trovate tanto ancora su Fabrizio Corona, i commenti, chi sta con Corona, chi dice di no, chi dice di su, chi dice di giù. Va bene, intanto voi non lo sapete, ma Obama ha annunciato che entro il 2040, entro la decade del 2030, quindi qualcuno titola sbagliato dicendo entro il 2030, entro la decade del 2030 vuol dire entro il 2030, no, insomma entro il 2040 andremo su Marte. Su Marte entro il 2030, eccolo qua il titolo con errore per esempio del giornale, ma quante incognite sull'annuncio di Obama, la NASA ci lavora da tempo, tra i problemi c'è il viaggio per tornare a casa, ci manca solo che uno vada su Marte e poi ci rimanga per sempre, e i raggi cosmici, il Corriere dedica mezza pagina, scusate, il giornale dedica mezza pagina a questo, faccio vedere anche in diretta sul mio profilo pubblico Facebook. Andremo su Marte? Grande dibattito ovviamente sui giornali. Ieri invece ho parlato dei gruppi di WhatsApp. Avevo dedicato la carta costa a questo tema, l'articolo più inutile scovato sui giornali, a mio insindacabile giudizio, ricordate. E oggi ci risiamo. Una pagina di Repubblica, dove non è che si parlano dei gruppi di WhatsApp, quelli delle chat scolastiche, genitori di, poi c'è i genitori del calcio, i genitori del basket, i genitori del catechismo, i genitori di qui, i genitori di là, i genitori di giù, tutti i genitori del mondo, genitori senza genitore A, genitore senza genitore B, e uno si ritrova in 45 chat. Ma ora ci sono i corsi, i gruppi WhatsApp senza regole, arrivano i corsi per mamme e papà, io ne voglio conoscere uno! Uno che va ai corsi per gestire le chat di gruppo. Presentatemene uno che devo dirgli due cose. Ma chi se ne frega!